Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out. Può partire Jorginho. La finta, la parata di Scuffet, che è sfortunato. Palla che resta lì e Jorginho porta in vantaggio il Napoli al 33esimo minuto. Arriva il cross verso Dzeko, attenzione, inserimento! E il gol del Roma con El Shaarawy, il gol dell'ex. Brutto gesto di De Rossi, la trattenuta ma soprattutto lo schiaffo successivo. Adesso Giacomelli fa il cenno della VAR, rigore e rosso allora, eh sì, inevitabile. Rischia Giacomelli. Va la Padula col sinistro, 1-1 il pareggio del Genoa. Bonucci perde palla, Iago Falca, attenzione, rimedia Romagnoli, ma finisce 0-0 tra Milan e Torino. Insomma, questo è il riassunto di questa domenica pomeriggio con solo tre partite ma con tanti temi di cui discutere. Allora, io ricordo subito i contatti per intervenire, oggi vi voglio, 800 24 00 24, vi prenotate per intervenire in diretta fino alle 19 e poi 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Saluto subito Fabrizio Roncone, ciao Fabrizio, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Adesso facciamo le cartoline delle tre partite, erano tre le partite, non tante. Andiamo subito a San Siro al nostro Dario Ricci, ciao Dario. Ciao, ciao Giovanni. Allora ti do 20 secondi per la cartolina di Milan-Torino. Hashtag i conti non tornano per questo Milan che raggranella appena 20 punti in campionato e raggiunge Chievo e Bologna, un Milan che rimane anche sempre sotto osservazione dell'UEFA per il financial fair play. Sì, anche perché di questo passo diventa difficile anche qualificarsi per la prossima Europa League. Carissimo Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Allora, la cartolina del Napoli la do io. Questa è una di quelle giornate che ti racconta che è l'anno di una squadra. E in questo caso parlo del Napoli. A Udine non è stato un bel Napoli. Il rigore con cui ha vinto è fatto apposta per far discutere per i prossimi sei mesi, però ha vinto. 38 punti, viaggia a una media di 103. Fabrizio, ci aiuti a dare la cartolina della Roma invece? Ma io spero che in questo momento De Rossi stia salendo sul pullman dei tifosi della Roma per chiedergli scusa, esattamente come sali sul pullman degli svedesi per complimentarsi. Inaccettabile il comportamento di uno che ha la fascia da capitano. Recidivo perché lasciò la Roma in 10 anche contro il Porto l'anno scorso nella partita di qualificazione alla Champions. A questo punto una società importante, secondo me, dovrebbe intervenire con una multa e probabilmente togliendo la fascia per qualche giorno. Allora, che cosa ha fatto De Rossi? Lo raccontiamo a chi è alla radio e non l'ha visto. Siamo sull'1-0 per la Roma, che è passata a fatica, una partita difficile, anche con merito, però è passata con El Shaarawy al quarto d'ora del secondo tempo. De Rossi, su un traversone innocuo all'interno dell'area di rigore, da una trattenuta prima e poi uno schiaffo in faccia violento alla Padula e la Padula va giù, non si vede niente in presa diretta, VAR e ovviamente calcio di rigore ed espulsione per De Rossi. La partita da lì per la Roma diventa complicata, complicatissima. Sta per arrivare anche Eusebio Di Francesco subito ai microfoni di Premium Sport e quindi adesso appena possibile ve lo facciamo sentire. Io credo che questa follia, la possiamo definire così, di follia, peserà tantissimo sul campionato Carlo della Roma. È incredibile, è un giocatore per cui io, vabbè Fabrizio, tu sei arrabbiato essendo tifoso, io ho il massimo rispetto per De Rossi. Vogliamo sentire Di Francesco? Vediamo se sentiamo subito Di Francesco allora. Non ha determinato il risultato, io parlo solo di gestione, ci sta, però tutelare anche le squadre che cercano di giocare a calcio, cercano di fare la partita, secondo me mi sembra opportuno per una squadra come noi che anche in 10 ha cercato ugualmente di fare la gara e cercare di portare a casa i tre punti. Ecco, paradossalmente, quasi come uno sblocco mentale, avete, la mia personalissima opinione, giocato un po' meglio quando eravate uno in meno rispetto a un primo tempo dove eravate un po' sotto ritmo, un giro di palla sempre in possesso però poco efficace. Ma il sotto ritmo te lo danno gli altri, perché se sono in attesa e stanno dall'altra parte e si difendono vicino all'area di rigore ti danno magari tanta ampiezza, tanta densità. Però la capacità e la bravura nostra è stata in queste partite di sbloccarla, perché dopo averla sbloccata ci siamo mossi sicuramente meglio, ma era anche una questione di atteggiamento di una squadra avversaria che non aveva mai tirato in porta fino a quel momento. Quando sblocchi e sei bravo a far gol devi gestire meglio. L'ingenuità l'abbiamo pagata, non solo per il rigore ma per essere rimasti anche in 10, ed è questo che un po' ci ha complicato la vita, ma nello stesso tempo abbiamo sì concesso magari un'occasione a loro importante, ma noi ne abbiamo avuto altre tante due che potevamo andare a rifare gol. Peccato, allora, peccato. Queste sono le parole di Francesco, cui io assegno, e ve lo dico, il premio Pinocchio d'oro di questa domenica. Sì, hai ragione. Hai ragione. Dai, no, ma dicevo, De Rossi è un giocatore che io adoro per mille motivi. Ogni tanto gli parte l'embolo, gli si chiude la vena, come si dice con i piloti, e fa di queste sciocchezze madornali e colossali. Qui poi con la VAR è stato giustamente smascherato e ha anche fatto finta di protestare, non capisco per cosa, ha tirato una pizza, come dicono a Roma, sì. sulla faccia di Lapadura, che portava pure i segni. Mi sembra sacrosanto tutto questo, e certo è questa era la partita più interessante forse del pomeriggio. Fabrizio, hai sentito di Francesco, ha detto non ha determinato il risultato. No, vabbè, è chiaro, Di Francesco fa l'allenatore e dipende l'integrità dello spogliatoio. Il problema è che non possiamo derubricare, come fa Di Francesco, l'incidente a ingenuità. È una cosa grave, perché intanto è un calciatore che porta la fascia di capitano. Di quale che sia la squadra, hai la fascia di capitano. Poi, insomma, sei anche un giocatore che ha una certa esperienza. Naturalmente noi siamo purtroppo abituati a questi gesti di pura follia di De Rossi, e forse cominciamo ad essere un po' stanchi di derubricarli a ingenuità. Sono, no, Fabrizio, non è ingenuità, però non mi puoi pettinare in questo modo, Daniele De Rossi. Anche a Totti è capitato di perdere perdere la brocca. È capitato a tutti. Il problema vero è che oggi, come dicevate voi, era una giornata speciale, perché con due punti in meno, oggi perdi il contatto con le tue dirette avversarie. E questo doveva essere per la Roma un filotto fino a Natale piuttosto facile. Ora, è vero che il campionato è lungo, è vero che mancano a tutti la maggior parte degli scontri diretti, però oggi sei due punti in meno di distanza dal Napoli. E questo è il dato, diciamo, politico della giornata del campionato, che la Roma perde il contatto con l'Inter e con il Napoli, aspettando naturalmente i risultati di Lazio e soprattutto della Juve. Certo, capitano della Roma è francamente inaccettabile dal punto di vista dei tifosi. Poi De Rossi ci verrà a fare la solita lezione che bisogna essere tifosi della Roma sempre. Infatti noi siamo sempre tifosi della Roma, anche quando il capitano della nostra squadra mette in serissima difficoltà il cammino della Roma. Scusa, ma riprendendo un passaggio che hai detto prima, hai detto, se non ho capito male, siamo anche un po' stufi. Forse la deromanizzazione della Roma doveva prevedere non solo l'allontanamento di Totti, visto che c'eravamo? Guarda, io adesso devo dirti questo, lo dico proprio con il cuore. Io forse, diciamo, io mi identifico più in De Rossi che in Totti. Diciamo, da tifoso della Roma, io quando vedo giocare un calciatore mi identifico più in De Rossi che in Totti, nel senso che io probabilmente avrei le reazioni più vicine a quelle di De Rossi che a quelle che ha avuto Totti, che ha perso la testa una volta, De Rossi la perde in continuazione. Non vi dimenticate anche in Champions tutte le entrate ai limiti del regolamento, tutte le volte che viene graziato. Noi tifosi della Roma che guardiamo la Roma sappiamo che a un certo punto De Rossi gli parte, no? Gli parte l'embolo. E io mi identifico più in De Rossi, ripeto, che in Totti. Da tifoso. Detto questo, io sono il tifoso, e De Rossi prende 5 milioni e passa all'anno netti, per fare il calciatore della Roma il capitano. Mm. Allora è inaccettabile, inaccettabile che si comporti così. È inaccettabile. Altro che ingenuità, come l'ha definita Di Francesco, che però fa l'allenatore, prende meno di De Rossi, ma giustamente poi deve cercare di tenere tutto insieme. Grazie Fabrizio. Ciao Fabrizio. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, adesso abbiamo il traffico. Io lancio lì l'altro tema. Ne stanno arrivando una tonnellata di messaggi sull'autorigore del Napoli. Io non sono convinto che sia un rigore completamente inventato, ma tanti si chiedono perché non è intervenuto il VAR nell'episodio che decide Udinese-Napoli. E allora, insomma, sentiamo anche le parole di detti protagonisti, 800-24-0024. Io dico solo che tutti quelli che in queste prime 13 giornate hanno detto che il VAR funzionava solo per chi voleva, e diceva ad esempio che era spento con le milanesi, insomma, tante polemiche cui abbiamo assistito, oggi dovrebbero chiedere scusa, perché il VAR ha funzionato o non funzionato alla stessa maniera anche per il Napoli. Traffico, torniamo subito. Convocati. Tutti convocati. 11 tiri verso la porta, 6 in porta con qualche Montella grande parata a Premium Sport. Da parte di Sirigu vorrebbe da dire la partita stregata, ma le chiedo anche, forse c'è un problema a gol in questo Milan, che è la quarta partita in casa che non riesce a segnare. Allora, analizzando la partita, credo che il Milan l'abbia condotta dall'inizio alla fine, alternando anche il ritmo. Quando siamo riusciti ad alzare il ritmo abbiamo creato anche delle occasioni, abbiamo creato 6-7 palle gol nitide e altrettante dove ci è mancato l'ultimo passaggio. Abbiamo concesso, non ricordo, un tiro in porta del Torino nel primo tempo, ricorda al novantesimo, giù vicino al novantesimo, abbiamo rischiato anche di subire gol sull'unica occasione del Torino. Io alla squadra non posso recriminare nulla, se non un po' più di serenità, un po' più di tranquillità e un po' più di qualità in zona gol, perché ci arriviamo, perché gli attaccanti stessi si creano le occasioni, ma in questo momento non siamo in grado, non siamo bravi a sfruttare queste occasioni, per me, anche perché non sono particolarmente sereni e la serenità te la dà gol, quindi è un momento un po' così, però la squadra ha combattuto fino alla fine, ci ha provato fino alla fine, è veramente una partita stregata più che altro, ma la prestazione rimane, la convinzione rimane, mi dispiace per il risultato. Allora, queste sono le parole di Montella, Premium Sport. Andiamo subito a San Siro dal nostro Dario Ricci. Ciao Dario. Eccoci Giovanni. Allora, io completo la questione numerica che hai dato tu prima. In questo momento il Milan è a 6 punti minimo dalla zona Europa League, potenzialmente a 14 dalla zona Champions League, ha rispetto alla passata stagione 9 punti in meno, ha rispetto alla stagione di Mihajlovic, quindi 2015, 3 punti in meno, lo stesso numero di gol fatti, lo stesso numero di gol subiti. Curiosamente, nelle prime 14 delle ultime 3 stagioni ha sempre subito 18 gol. La differenza è che l'anno scorso ne aveva fatto qualcuno in più, non 19 ma 25. Questa per dare la fotografia numerica a te, Dario. Con me Arianna Ravelli, inviata del Corriere della Sera. Arianna, Montella ha parlato di partita stregata e forse per alcuni aspetti è stato anche così, perché comunque le occasioni ci sono state, ma l'impressione che rimane almeno nei miei occhi è quella di una squadra che sia soprattutto volenterosa più che organizzata, più che strutturata. È un'impressione solo mia? Ma forse sei un pelo troppo critico. Facci giù duro pure con me, per carità. No, adesso voglio dire, non siamo di fronte a una partita che passerà negli annali della storia del calcio, quindi sì, quindi un po' ti do ragione, però è anche vero che il Milan, secondo me, ha ragione Montella quando dice ha condotto la partita, ha fatto la partita, è stata secondo me poi clamorosamente mancante in zona gol, cioè il Milan ha un clamoroso problema in attacco. E quindi adesso stavo sentendo appunto Montella che parlava, gli hanno chiesto se non aveva qualche rammarico rispetto al mercato, perché naturalmente il grande attaccante non è arrivato, e io penso che lui non possa rispondere quello che pensa, non possa dire la verità, ma è il rammarico, credo che non possa non esserci oggi, nel senso che vabbè, Kalinic è uscito tra i fischi, l'abbiamo sentito, però veramente ha sbagliato moltissimo, ha sbagliato lui, ha sbagliato André Silva, anche se pure poi ha fatto qualcosa di meno evidente, sì, di meno evidente, e quindi insomma è chiaro che il Milan è la quarta partita in fammi fare una battuta, magari non sono neanche abituati a giocare in coppia insieme, visto che solo con l'infortunio di Borini, no, Giovanni Montella ha cambiato questo schieramento, sì, sì, quindi si è ritrovato prima di questa con le due partita avevano 262 minuti insieme in tre mesi e passa di con stagione l'Austria, Vienna, in e poi con Spal, Roma, Juve, ma dei ritagli. Esatto, e ritagli, e infatti si sono visti anche degli errori proprio di clamorosi di appoggi finali, no? Cioè che non si sono proprio trovati, e questo è chiaro che può migliorare con l'intesa che fin qui non hanno avuto l'occasione di esercitare, di allenare. Però perdonatemi, non è un po' comodo uscirne come esce Montella? Cioè da due o tre settimane ci racconta che il Milan sta trovando una sua identità, che il gioco migliora, adesso non sono sereni, un'altra volta il Napoli è troppo forte. E la verità è che la stagione ormai è scivolata via, e se ad esempio davanti non ci sono dei meccanismi, io credo che qualche domanda la società possa anche farla a Montella, visto che in quel reparto lì ha speso un'ottantina di milioni mal contati, credo non facendo violenza a Montella. No, ma poi scusatemi, scusa Arianna, però noi possiamo assolverlo per la partita di oggi, Karinč ha sbagliato diversi gol, tutto quello che vogliamo, la coppia non era rodata e ben assortita, però il Milan non vince in casa dal 20 settembre. Una volta sarà anche colpa di, oltre che della sfiga delle stelle di Karinč o di chi vuoi tu, pure di Montella, cioè non è possibile un andamento di questo genere. No, no, ma io non voglio togliere colpe a Montella, assolutamente. Avevo risposto sull'organizzazione, su come avevo visto la partita oggi. Dopodiché, se facciamo un discorso generale, se ci sono tutta una serie di giocatori che stanno rendendo, secondo me, al di sotto delle loro potenzialità, oltre che al fatto che magari non sono dei fenomeni, ma rendono al di sotto delle loro potenzialità, il primo responsabile è l'allenatore, perché è lui che li allena. E quindi alla fine, soprattutto a questo punto della stagione, possiamo assolutamente, ci mancherebbe criticare e dare a Montella le responsabilità che sono di Montella, proprio perché li allena lui e proprio perché non è uno caso isolato, ma qui se ne vedono tanti dei giocatori al di sotto, ripeto, delle loro potenzialità. Sì, oggi forse il migliore è stato Zapata, insomma, no? Zapata e Montolivo anche mi non è dispiaciuto, oltre a Donnarumma che quando, alla fine ha fatto il suo. Quindi sì, sono d'accordo, sono questi tre secondo me che si sono distinti. Quindi no, assolutamente, cioè l'allenatore ha delle colpe, forse ne ha qualcuna anche la società, perché forse qualche scelta è stata sbagliata, ecco, era questo il mio ragionamento. Ma ragionevolmente oggi che è il 26 novembre la situazione numerica è quella che abbiamo squadernato, ci aggiungiamo ovviamente la qualificazione acquisita alla seconda parte dell'Europa League. Qual è l'obiettivo di questo Milan? Che ha perso tra l'altro con le prime sei della classifica, quindi insomma. Sì, e che ha smesso di vincere con quelle dietro, che secondo me è il dato più preoccupante. Ma sì, anche se il Torino aveva un punto dietro e col Torino ha pareggiato anche l'Inter in casa, quindi adesso non farei un catastrofismo per oggi. Per un discorso più generale e per il fatto che a questo punto della stagione già il Milan, come dite voi, non ha più obiettivi, cioè l'obiettivo quantomeno a questo punto è di non sbracare, mantenere, provare adesso a fare da qui a Natale un mini ciclo tutte con squadre abbordabili, medio-basse, quindi è chiaro che bisogna fare pieno di punti da qui a Natale e poi tenersi stretta a questo punto l'Europa League, perché non vedo realisticamente quale altro possa essere l'obiettivo, e poi provare ad andare avanti in Coppa. Sì, Coppa Italia, dove tra l'altro potrebbe esserci il 27 dicembre il derby, quindi turno banale. Potrebbe esserci, però prima bisogna vincere anche quella prima. Che credo sia col Chievo, no? Col Chievo, potrebbe essere col Chievo. Altra partita non banale. Grazie Arianna. Sì, no, non banale, perché io faccio questa considerazione. Cioè, dopo Napoli si era detto, adesso questo Milan può partire a tutto il filotto. Il filotto comprendeva anche Milan-Torino, per intenderci. E la prima è andata. E ho l'impressione che in questo momento nessuna partita per il Milan sia qualcosa che tu possa affrontare considerando davvero di poter far partire un filotto. Ma lo dimostrano i dati. Cioè, ti ripeto, il Milan non vince in casa dal 20 di settembre. Siamo alla fine di novembre. quindi ovviamente ha giocato con la Juve, con la Roma e così via, però non batte in casa nemmeno squadre che potrebbe battere. No, allora, dovrebbe battere. Allora, io potrebbe. Saluto Arianna Ravelli, la ringrazio. Voglio sapere un'ultima cosa da Dario prima di liberarlo, e cioè come è stato preso al fischio finale questo risultato da San Siro. Sono arrivati dei fischi da San Siro, così come i fischi, ricordava Arianna, che hanno accompagnato l'uscita di Kalinic, però non è stato un muro di fischi, no? Di quando si è visto il peggior Milan, o di quando San Siro da questo punto di vista riesce a dare il massimo. Diciamo, c'era lo scontento, ma comprendendo anche che oggi in effetti la volontà della squadra ce l'ha messa, è mancata effettivamente la precisione, ecco, la sensazione è questa, di una squadra volitiva che lì c'è pure arrivata. Oggi anche, bisogna anche riconoscere la grande partita di Sirigu, che almeno sì, ha fatto una grande serie di parate, è stato sicuramente il migliore in campo. Va bene, grazie Dario Ricci, ciao Dario. Grazie Dario. A voi, ciao. Ci vediamo in redazione. Non so se condividi, ma mi sembra che questo sia anche peggio, una sorta di rassegnazione da parte dei tifosi, che è quello che secondo me il Milan dovrebbe fare di tutto per evitare, perché siamo soltanto a fine novembre e diventa complicato. Allora, c'è chi chiede se si profila una corsa tra Inter e Napoli per lo scudetto. No, io continuo a pensare che la corsa sia fra Napoli e Juventus, anche se l'Inter comincia ad avere una solidità che è difficile da non riconoscere. Poi parleremo dopo le 18 dell'Inter, e secondo me Inter-Chievo di domenica del prossimo turno, di domenica prossima, è una partita che ci racconterà qualcosa, perché Spalletti dovrà fare a meno di probabilmente di 3/11 della sua formazione base, 2 sicuri, Gagliardini e Miranda, che sono squalificati, e 1 Vecino, che credo non sarà disponibile per quella partita, e quindi vedremo Spalletti costretto a cambiare quelle che sono le sue abitudini. 800 24 00 24, ci fermiamo, torniamo con Pierluigi Pardo, torniamo anche con le parole di Maurizio Sarri, che è il capolista di questa Serie A, 38 punti, vi daremo anche le formazioni di Lazio Fiorentina che dalle 18 seguiamo in diretta. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe. Tutti convocati. Tutti convocati. Trasportati in una partita sporca di seconde palle, e effettivamente gli anni scorsi andavamo molto più in difficoltà. Oggi abbiamo fatto una partita allenante dal punto di vista dell'applicazione difensiva, dal punto di vista dell'attenzione. Abbiamo fatto meno qualità del solito, anche se poi su un terreno di questo tipo è anche difficile fare qualità, è uno stadio nuovo, bellissimo, con un terreno indegno di una categoria professionistica, e questa è la fotografia del calcio italiano. Quindi brutto campo anche oggi qui a Budino. Ma se non ne siete accorti, penso che dovete fare un altro lavoro, perché se state qui a commentare il calcio non vi accorgete delle condizioni di un terreno in cui ci andavano 3 tocchi per stoppare la palla, è grave. Al di là di questo, questo è Sarri. Poi vediamo se ha parlato anche del calcio di rigore che ha regalato al Napoli la vittoria a Udine. Io non lo so. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao Pierino. Ciao ragazzi. Bene. Ciao. Gigi De Cagno, ciao. Ciao mister. Ciao, buonasera a tutti. Ma ciao. Io mi chiedo, ma è possibile che a Sarri non vada mai bene niente? Poi celebriamo il Napoli primo in classifica, però perdonatemi. E sono già 2 campacci dopo quello di Ferrara, che è stato così bruciato, incendiato a parole da Sarri. Adesso arriva quello di Udine, sì, tutto vero, però insomma Napoli ha vinto, è stata una vittoria importante. Sì, Gigi, ma è così brutto il campo di Udine, quello nuovo? Ma io quando ci sono stato io sembrava, è sempre stato bellissimo, non lo so. Non so ora perché peggiorato strada facendo, ma forse ci sono stati dei problemi, non lo so, stranamente, perché lì ci tengono e lo curano molto, però se Sarri ha detto queste parole in questo modo, con questa forza, insomma evidentemente non gli è piaciuto. Pier, allora abbiamo fatto le cartoline all'inizio di questa domenica, c'è chi va dietro la Lavagna e De Rossi, c'è il Milan che lentamente si sta buttando via e a questo punto è addirittura a 6 punti dalla zona Europa League, altro che ragionare sulla zona Champions League, e c'è il Napoli che zitto zitto fa una di quelle vittorie, abbiamo detto all'inizio, che ti fanno dire questo è l'anno del Napoli. Non so, Pier, se sei d'accordo. Sì, beh, però ieri sera abbiamo pensato che questo è l'anno dell'Inter, quindi poi... ma io sì, sinceramente no. Il Napoli ha preso tre punti importantissimi, come li ha presi ieri sera l'Inter. Insomma, quando vinci senza, diciamo, demolire l'avversario, ma vinci di astuzia e di episodi, allora è sempre un buon segno, vuol dire che le cose vanno bene. Quello che non è successo alla Roma oggi, quindi... sono assolutamente tre punti molto importanti che consentono adesso di affrontare la partita con la Juve con un vantaggio secondo me significativo anche dal punto di vista tattico, poi nell'approccio alla partita. Un amico ricorda che su quel campaccio a Udine la Juventus in 10 ha fatto 6 gol, come per dire che poi evidentemente c'è chi ci si trova. Posso chiedere a Gigi De Canio, da allenatore, che cosa pensa uno dopo aver visto la follia di De Rossi, che costa 2 punti, al di là di quello che racconta poi di Francesco? È incomprensibile, davvero incomprensibile, ci si sorprende assolutamente, perché un ragazzo così, una follia del genere, insomma, non ha spiegazioni se non il momento in cui quello accade. Il ragazzo ha perso i nervi, Pier? Ha perso il controllo di sé. Sì, non ho molto da aggiungere, cioè è una cosa talmente chiara, talmente precisa, al tempo stesso talmente inspiegabile, diciamo. Inspiegabile, poi ovvio che talmente Francesco... ripetuta, perché non è la prima volta che ci cade De Rossi. Beh, ma De Rossi è questo, no? L'abbiamo detto prima, cioè è un giocatore meraviglioso che io non mi sento di accusare. Prima Fabrizio Roncone, da tifoso, era giustamente incazzato con il suo capitano, no? Perché è una roba così, all'età di De Rossi, con le esperienze di De Rossi non la fai, però le abbiamo viste da Totti, le abbiamo viste da altri giocatori con uguale esperienza. Cosa vuoi dire? È così, prendere o lasciare. Oggi ha fatto una fesseria, sappiamo che a De Rossi ogni tanto gli si chiude la vena, come i piloti, abbiamo detto prima, no? Abbiamo visto anche Valentino Rossi fare degli errori. No? Bravo, abbiamo visto la finale mondiale, abbiamo visto Zidane perdere la testa. De Rossi è questo, De Rossi è questo, prendere o lasciare. Io me lo prendo anche con questi attacchi di follia o di bullismo, come volete voi. Non so, voi ve lo prendete a prescindere? No, io non me lo prendo a prescindere. Io De Rossi sai benissimo che è un giocatore che stimo anche come persona, insomma, per come calciatore, però insomma, quando si sbaglia si sbaglia. De Rossi ha questa doppia natura, un giocatore di grandezze e di errori, un giocatore che parla chiaro ed è per questo molto interessante, insomma, da intervistare, da sentire. Certamente è un grande romanista, è una persona che in campo ci mette tutto se stesso, però oggi ovviamente ha sbagliato, così come ha giocato male con la Svezia in nazionale nella partita d'andata, l'ha detto, l'ha riconosciuto, perché sennò non si è intellettualmente onesti, ma penso che lui sia il primo a saperlo. Quindi poi Di Francesco ovviamente cerca di ridimensionare l'episodio, perché deve pensare sempre ad allenatore a 360 gradi, però questo è un errore che pesa 2 punti e in un campionato come questo i pareggi, spesso copia e incolla del discorso che abbiamo fatto 2-3 settimane fa in occasione di Chievo-Napoli, quando una grande squadra fa un pareggio contro una squadra piccola o medio piccola, con tutto rispetto per il Genoa, sono 2 punti che pesano tantissimo. L'abbiamo detto prima, questi sono i primi 2 punti che la Roma lascia contro una squadra che non faccia parte delle prime 5, fin qui era l'unica ad aver fatto percorso netto, con oggi non è più così. Hai l'impressione, chiedo a Gigi De Canio, che le partite, l'ha nominata anche Sarri, partita brutta, sporca, l'anno scorso in queste partite facevamo più fatica, oggi ne usciamo con la vittoria, hai l'impressione che questo processo di maturazione sia completato? Sì, per la verità ho questa sensazione, l'ho avuta come penso tutti noi nella finale dello scorso campionato, nella seconda parte dello scorso campionato, il motivo per cui poi quest'estate, quando sono stati tutti riconfermati, si pensava che il Napoli partisse insieme alla Juve con i favori del pronostico. Infatti è così, perché vedete, negli anni scorsi durante il campionato ci sono state almeno 2-3 espulsioni e squalifiche anche dello stesso Sarri. Quest'anno non c'è una protesta in campo, tutti gli episodi si accettano con maggiore serenità perché c'è questa consapevolezza della propria forza e della capacità di venerdì sera c'è Napoli-Juve, attenzione. Che è lo spartiacque della stagione anche da quel punto di vista. Io Gigi, non voglio fare il maligno, però. Gigi, dove metti l'Inter? Insieme a queste due, perché... Cioè, sullo stesso piano? Intanto, secondo me sì, intanto è forte, perché lo era anche l'anno scorso, eccetera. Quest'anno anche l'allenatore è più completo, conosce il campionato, non perché... non fosse bravo, insomma, però Spalletti è un'altra esperienza, un altro spessore, e la squadra è forte e non fa le coppe. E a lungo andare queste situazioni hanno un bel peso. Mi dici se secondo te era calcio di rigore quello del Napoli? Siamo alluvionati di messaggi. Ma secondo me sì. Secondo me sì. Perché quel piedino, per chi non l'ha visto, del difensore dell'Udinese, non si capisce bene dove va a finire. Poi c'è un incrocio tra Allan e Maggio che va giù, e quindi effettivamente le immagini mostrano anche un autofallo. Fallo di Allan su Maggio. Però la verità è che non c'è un'immagine chiara che chiarisca tutta la dinamica. Io voglio appunto dirlo in questo modo, cioè nel senso che come a velocità normale, per come si vede l'azione, viene spontaneo dire rigore. Poi dopo... sezionare tutti i momenti, insomma, non lo so. Infatti anche da altre immagini non si è visto con certezza e con chiarezza se non fosse che è il motivo per cui il VAR non interviene, lo dico a tutti quelli che stanno scrivendo. Il VAR non interviene per quel motivo lì. Io ho detto prima, dovrebbe chiedere scusa chi ha detto in altre occasioni che il VAR funzionava solo quando voleva. Mi vengono in mente altri episodi, non li dirò, ma il VAR è fatto così, carissimo Pier. Tanto andiamo avanti a parlarne. Allora io ringrazio e saluto Gigi De Cagno. Ciao mister. Grazie. Ciao mister, saluto, alla prossima. Saluto tutti, saluti, a presto, salve, buonasera. Ciao, grazie. Facciamo velocissimamente Enrico da Bologna. Enrico. Sì, pronto, buonasera. Vai. Saluti a tutti in studio e collegati. Proverò a essere conciso e chiaro. Tema VAR. Non sono un sostenitore dell'introduzione del VAR, ma ce l'abbiamo e tant'è. Per tre ordini di motivi. Uno, siamo illusi, hanno illuso forse i tifosi che fosse una panacea per tutti i mali. Ed evidentemente non è così. Anche perché sposta un po' il margine di discrezionalità dall'arbitro a siede in cabina, dietro alle telecamere, e questo è un altro argomento secondo me molto spinoso. Quello che è successo a Napoli è veramente al limite, onestamente non lo so se fosse rigore o meno, però chiaramente l'arbitro a velocità normale ha dato rigore come avrei dato anch'io. Sì, e quegli altri senza una chiara immagine hanno di fatto confermato. Pier, io non so che idea ti sei fatto su quell'episodio, perché fa discutere, giustamente, è fatto questo. Apposta per far discutere. È assolutamente questo, c'è un episodio con un calcio di rigore che viene dato e sicuramente a velocità normale si può dare. Poi lo vedi e non c'è un'immagine chiarissima che confermi il rigore, ma non c'è neanche un'immagine chiarissima che confermi un chiaro errore arbitrale. Quindi diciamo che è questo. Quindi secondo me è giusto, per quello che è il regolamento, non aver cambiato la decisione. Lo dico, sapete qual è un altro episodio in cui non esiste un'immagine chiara che escluda che possa non essere rigore? Skriniar Perotti. L'ho detto, ragazzi, allora il VAR funzionò bene, al di là che forse quello era davvero calcio di rigore. Stiamo ragionando del VAR. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Fatto apposta per far discutere, infatti si discute, c'è chi ricorda due aiuti VAR a favore del Napoli nelle ultime due giornate, l'altro dovrebbe essere il famoso fuorigioco di Insigne sul gol segnato e che ha aperto le marcature del Milan. Secondo me qui andiamo oltre, però insomma io quello che pensavo l'ho detto prima. Saluto Xavier Iacobelli, ciao direttore. Ciao direttore. Buonasera a voi e buonasera agli ascoltatori. Qual è la tua cartolina di questa domenica pomeriggio? Beh, la conferma che l'Inter è molto più di un outsider nella lotta per lo scudetto, che il Napoli è più che mai favorito per il titolo, perché quando vince partite difficili, dure, non caratterizzate da un livello qualitativo di gioco particolarmente eccesso, conferma di essere pienamente consapevole della propria forza. Per la Roma è una battuta d'arresto, una frenata, per meglio dire, che non ci voleva, però è anche vero che la Roma deve recuperare la partita con la Samp e non deve essere assolutamente considerata tagliata fuori dai giochi di vertice. Pier, secondo te questa battuta d'arresto della Roma significa anche che a livello mentale continua a mancare qualcosa? Perché ieri Di Francesco parlava dei cali nel finale a Madrid, quello di oggi io lo reputo un calo mentale, un blackout totale di un giocatore, ma alla fine ti costa, e la Roma ricade sempre in queste cose. Ma io sì, ma tra l'altro aspetta, va Pier, poi c'è Iacobelli, sì. Ma sì, tra l'altro un giocatore simbolo, perché insomma parliamo di un giocatore che ha esperienza assoluta, anche se poi l'abbiamo sempre detto che comunque l'abbiamo detto anche qualche giorno fa, prima che succedesse questo episodio, che De Rossi ha queste amnesie nella sua carriera, le ha sempre avute, e poi ha altre cose molto belle, ovviamente, di grande livello, di grande qualità, però questi errori non è la prima volta che li commette. E sì e no, nel senso che poi alla fine, dopo Chievo-Napoli, che è stato l'ultimo pareggio appunto con una media piccola, si poteva pensare allo stesso tipo di discorso, anche se lì sembrava un aspetto più che altro di natura fisica, e poi invece il Napoli si è ripreso. Secondo me è ancora un po' presto. Certo, la Roma, in un campionato nel quale le grandi perdono pochissimi punti, ha qualche bonus in meno. Ha qualche bonus in meno perché ha perso due scontri diretti, oggi ha fatto questo pareggio, e quindi è un po' indietro, per questo. Secondo me ci sono ancora margini di recupero. Però, insomma, sicuramente questa settimana non è stata... ha interrotto il processo di crescita che la Roma aveva avuto nelle ultime uscite, no? La Roma era arrivata veramente fortissima alla partita di Madrid, con le 12 vittorie consecutive esterne in campionato, e indubbiamente il passo indietro c'è stato, questo è discutibile. Poi ripeto, due punti pesano no, molto. Due punti sono tantissimi in una classifica come questa. Però anche il Napoli ha pareggiato a Verona con il Chievo, insomma, ormai però il Napoli quasi ha vinto tutti gli scontri diretti. No, infatti la differenza la fa quella, Giovanni. La differenza la fa quella, fino adesso nel campionato della Roma, gli scontri diretti, che però sono ormai storia abbastanza passata, diciamo così. Oggi era una partita determinante, e non ci fosse, siamo sempre lì, stato quell'episodio di De Rossi, la Roma con ogni probabilità, è chiaro che non abbiamo la controprova, però avrebbe portato a casa tre punti importanti che l'avrebbero tenuta lì, e staremmo parlando di altre cose, staremmo parlando del nulla, no? Direttore, che voto dai a Montella, che continua a essere contento del gioco del Milan che vede? 5. Io credo che 5, anche perché non va bene così. Non va bene perché anche stavolta in attacco ha rimescolato le carte, Cutrone l'ho inserito dopo. Io continuo a non capire perché non insista su una formazione e vada avanti bravo direttore, ma possibile, stiamo scoprendo l'acqua calda, cioè Spalletti giustamente fino adesso allenatore dell'anno, possiamo dirlo allenatore dell'anno per quello che sta facendo con l'Inter, 11 li metti lì con un sistema di gioco che vuoi tu, quello che ti ma pare li trovati, e li fai come? Ragazzi, li ha trovati, cioè, è anche merito suo. No, però. No, Pierluigi, però in situazioni di questo tipo, cioè tu scegli, come ha fatto Sarri, come fece a suo tempo Mazzarri, cioè ne battezzi 11, li metti lì e li fai giocare 10 partite, una dietro l'altra. Ne battezzi 11, scusate. Ma come no, scusa Pier. Ne battezza 11 perché funzionano. Ok, li scegli tu. Montella non li trova, no, io sono d'accordo con il direttore che no, poi... No, ma sei pagato per fare quello, scegliene 11, no? Sì, ma il problema di questo inizio di stagione è sicuramente il fatto che il Milan ha confusione, e questa confusione Montella insomma la vive, però non è cioè è la conseguenza, non è la causa, secondo me è la conseguenza del fatto che non ci sono questi equilibri, cioè un Icardi il Milan non ce l'ha, un Handanovic il Milan non ce l'ha, un Borja Valero il Milan non ce l'ha, uno Skriniar non ce l'ha, questa è la verità. Sì, però chiedo scusa se interrompo, ma quando tu vinci 5-1 con l'Austria a Vienna e Cutrone si conferma come un attaccante che in questo momento deve giocare sempre, non puoi ricominciare da capo la partita successiva. Qui è dall'inizio della stagione che Montella continua a cambiare formazione. Ora, dal punto di vista qualitativo, certamente non ha un Icardi, come dice Pierluigi, però è anche vero che se tu non insisti per almeno 10 partite di fila, salvo ovviamente infortuni o squalifiche, ma su un organico, poi è chiaro che la squadra va in confusione. Che mettiamoci nei panni di Cutrone, per esempio, che segna una doppietta in Europa League, che dall'inizio della stagione è la rivelazione del Milan, ma è sempre su questa altalena. Allora vale per Silva, scusate. Non parliamo di André Silva, che è campione d'Europa col Portogallo. Non è possibile che questo possa segnare in Europa League e poi venga messo sempre in discussione. Il Milan continua a perdere punti per strada, anche perché il suo allenatore non decide una volta per tutte con chi caspita voglia giocare cinque partite di fila. Questo è il problema. Il problema, e non credo, se fossi un dirigente del Milan, che si possa continuare a perdere in continuazione punti, perché adesso sei ad 11 punti dal quarto posto, ma la Juventus deve giocare questa sera, per il momento la Roma deve recuperare la partita con la Samp. A quanti punti di distacco dal quarto posto deve andare lì perché finalmente Montella si decida a scegliere una formazione? Ma siamo alla fine di novembre, ad agosto. Insomma, siamo quasi a metà stagione. Grazie direttore. Ciao direttore. Grazie, perfetto. Grazie a Xavier Iacobelli. Pierluigi Pardo resta con noi. Allora, abbiamo le formazioni, le leggo in due secondi, di Lazio-Fiorentina. Lazio, Stracoscia, Bastos, De Frey, Radu, Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic e Lulic, Luis Alberto Immobile. Fiorentina, Sportiello, Laurini, Pessella, Stori, Biraghi, Benassi, Badeli, Veretù, Chiesa, Terò e Simeone. Dalle 18 ve la raccontiamo. Torniamo subito. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua! Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. Settimo minuto di gioco nel corso del primo tempo all'Olimpico, 0-0 tra Lazio e Fiorentina, partita che seguiremo e vi racconteremo da qui fino alle 19. Vi ricordo ancora come prenotarvi per intervenire: 800 24 00 24, oppure se volete scrivere un sms, un whatsapp, 349 238 6666. C'è Pierluigi Pardo, c'è Carlo Genta, ci sono le parole di Daniele De Rossi, carissimi, se volete ve le leggo. Allora, sono arrivate le scuse del capitano della Roma. Ha detto: le immagini sono brutte, l'episodio mi lascia dispiaciuto. Contro la Lazio ce le eravamo date di santa ragione con Parolo e Bastos e mi ero ripromesso di stare più attento. Chiedo scusa a compagni, mister e tifosi. Boh, non lo so. Che c'entra che nel derby si era andata di santa ragione? Non ho capito, cioè quella lì è una cosa, è una sciocchezza che ha meritato quel provvedimento che è stato preso, bar o non bar, meno male che c'è, perché insomma era abbastanza evidente. Non so, l'impressione non si fosse ancora abbassata del tutto l'adrenalina, no Pier? Sì, fine partita, cioè, nelle parole. Sono scuse doverose, dai. Sì, cioè, sono scusette. Che non cambiano. Non cambiano il senso delle cose. Sono scusette. Che deve fare adesso, non è che deve fare. No, non è che deve stare in ginocchio sul ceccio una settimana. Ha fatto una cazzata queste parole, che sono parole secondo me vere e sentite, però non cambiano la sostanza, non cambiano i due punti persi e non credo che lo salveranno, diciamo, da critiche e polemiche in settimana a Roma. Ma, però comunque è positivo, perché insomma è meglio questo che stare in silenzio, quindi sì, no, per carità, chi parla merita sempre il rispetto. Non, ripeto, non mi sembra che ci sia moltissimo da dire, moltissimo da aggiungere a quelle immagini. Secondo me il riferimento al derby direi che è puramente casuale, nel senso che vuol dire se lì ti sei menato e qua non te l'hanno permesso perché si gioca a calcio, non wrestling, è una roba normale. C'è anche chi fa notare che, per carità, è un momento di blackout, è un lapsus, però in realtà lui immediatamente si accorge di quello che ha fatto, perché va lì con la padula cercando di accelerare il fatto che la padula si rialzi. La padula non sta simulando, perché ha preso uno sganassone. Intanto Terò è andato vicino, diciamo, al gol. Siamo nel nono minuto di Lazio-Fiorentina, un destro dal limite dell'area di rigore, palla che si è persa di poco a sinistra a destra del palo della porta difesa da Stracoscia. Abbiamo Marco e Andrea, 800 24 00 24. Marco, buonasera a tutti. Vai. Allora, io volevo capire un attimo il criterio del VAR, perché cito alcuni episodi tipo Inter-Roma, dove praticamente c'era anche un calcio di rigore della Roma dove non è stato interpellato. Il famoso Skriniar Perotti. Sì, e poi praticamente quello di Crotone-Roma, totalmente inventato, dove non è stato interpellato. Qui non so quello che si voleva inventare De Rossi, tra l'altro si legge un labiale che è ancora più esplicito e particolare quando poi l'arbitro dà anche l'espulsione, no? Che criterio ha in realtà il VAR? Cioè, come funziona? Perché, come detto, anche con il calcio di rigore contro la Lazio, a favore della Lazio, l'arbitro ci ha messo un quarto d'ora per dire sì. Cioè, però, qual è il criterio Marco, del perdonami, VAR? Perdonami, sull'episodio di oggi di De Rossi, io credo non ci sia discussione. Cioè, il VAR funziona esattamente come deve funzionare. L'arbitro non vede, è un episodio del rigore, e in più un episodio da espulsione, anche fosse stato, per intenderci, a palla ferma, e quindi non un episodio da rigore. L'espulsione è uno dei quattro casi in cui il VAR può intervenire, e quindi eventualmente al limite sarebbe scattato solo il cartellino rosso, però non c'è niente da discutere, siccome la palla era in movimento, no, esatto. È calcio di rigore ed espulsione, e vabbè, De Rossi poi fa quello che fa, credo, qualsiasi giocatore, cioè prova a discolparsi, a protestare, ma io credo che oggi, se vogliamo ragionare sul VAR, si può ragionare sul rigore del Napoli per capire i meccanismi, esatto. Cioè, non sulla la questione di De Rossi. Terzo, sul terzo gol dell'Inter si può discutere, ovviamente. O si può ragionare sul terzo gol, assolutamente. Però no, sul episodio De Rossi è un episodio classico di applicazione del VAR, diciamo simile all'errore, simile per dinamica, sempre perché riguarda la Roma, quello che è successo la settimana scorsa con Manolas, il fallo di mano che c'era e che poteva costare caro la Roma in quella circostanza, poi la Roma comunque ha portato a casa i tre punti, oggi no. Tanto poi... la follia è che un giocatore dovrebbe saperlo, che oggi quel tipo di comportamento dentro un'area di rigore non è più invisibile. Cioè non ti può più andare bene, non è possibile, quella roba lì non la fai, cioè dovrebbe... Beh, però una volta poteva capitare, lo fai da furbo, non ti vedono. Che da furbo? Non esiste più da furbo adesso. Ma non esiste da furbo, cioè non è da furbo, nel senso che gli sa chi usa la vena e ha fatto quello che ha fatto, però non è neanche l'idea di passare inosservato, cioè ti vedono tutti, se non c'era la VAR... C'era il famoso overrule del giudice sportivo, e quindi ti beccavi comunque due tre. Pierluigi, però la partita la spangavi. Sì, però ho capito. Però il discorso è che lì può anche vederti l'arbitro VAR o non VAR e buttarti fuori e dare il calcio di rigore come sacrosanto. Però semplicemente ha fatto una sciocchezza. E non è che pensi, c'è la VAR e quindi sto attento, non la faccio. Perché uno che fa una roba così. Non è che sta a pensare alla televisione che c'è a bordo campo. Secondo me dovrebbero pensarci, Pier, non so come la pensi tu. Sì, secondo me è esatto. Cioè, premesso che poi da qui siamo tutti bravi, l'adrenalina della partita è ovviamente molto diversa, però è anche vero che sono giocatori abituati, preparati a questo tipo di tensione. Nel caso di De Rossi, poi c'è il fatto che è recidivo su errori di questo tipo e che ha oltretutto un'enorme esperienza, quindi è davvero un peccato, è davvero un paradosso quello che è avvenuto. Però sì, io credo che cambi parecchio. Cioè, oggi noi siamo in una situazione dove certi errori mediamente non passano più inosservati, quindi questa è proprio la classica fattispecie, secondo me, dove nel passato poteva esserci il fraintendimento e quindi poteva anche andarti bene. E oggi questo tipo di interventi li paghi proprio senza se, senza mai, è impossibile salvarsi, quindi sono d'accordo, bisogna al di là degli aspetti, diciamo, tra virgolette etici, che non si danno i pugni agli avversari o cose del genere, c'è un elemento proprio di meccanismo che oggi è completamente diverso. Attenzione, perché la Fiorentina continua a rendersi pericolosa. 13 minuti 20 secondi sul cronometro, ancora una conclusione dal limite dell'area di rigore e ancora Stracoscia che è stato costretto a gettarsi, tiro poi abbastanza centrale, ma conclusione che arrivava praticamente a specchio vuoto. Andrea da Forlì. Buonasera a tutti, grazie per la convocazione. Vai. Prima una provocazione, sono tifoso dell'Inter e comunque c'è la VAR e la Juve non è in testa al campionato, chiuso, ma volevo parlare di un'altra cosa. Ho chiamato per dire questo, una riflessione, perché vi ho sentito parlare di VAR, ma non ho chiamato per questo, è una riflessione sul calcio italiano e sulla nazionale che, diciamo la verità, ci hanno tolto un sogno di quest'estate, anche se fossero state solo tre partite. Io l'altra sera, martedì, ho visto il gol di Insigne e ho detto cavoli. Però quel gol lì si fa anche poi. Io ci ho pensato anche oggi vedendo il Sharawi. Esattamente, no, gli incubi. Quindi sarà un incubo da qui a giugno. E poi vi dico tre nomi: Cristante, Petagna e Masiello. Visto che si parla tanto dei settori giovanili e l'Atalanta, gran settore giovanili, l'Atalanta l'altra sera è andata a vincere 5-1 a Everton, l'Everton a Liverpool, e aveva tre italiani in campo. visto che si parla tanto di Atalanta, questo è lo specchio anche un po' del calcio italiano. Sì, però fine, l'Atalanta ne ha tanti in giro, di cui due ne ha tanti in giro. Sì, ha ragione, però due. Sì, però ieri tre undicesimi, di cui Masiello non si può parlare proprio di giovani, di cui due Cristante Petagna del Milan. Era giusto una riflessione. E secondo me è uno spunto interessante. Io non so se l'Atalanta sia l'esempio giusto, poi magari Spinazzola era fuori per infortunio. Ecco, l'eccezione, perché però, è una società che ha investito sui giovani italiani. Però no, il ragionamento in assoluto è giusto. Detto questo, non è che all'estero sia diverso, dai. Ecco, sia molto diverso, e secondo me, ribadisco quello che ho detto tante volte in questi giorni nei quali ci stiamo cercando di autopsicanalizzare per cercare di venirne fuori, non è neanche il momento più drammatico della storia del nostro calcio, cioè, adesso ha citato dei nomi di giocatori, Masiello ovviamente non è un giovane, c'è di peggio, nell'Ottocento non si giocava, secondo me siamo meglio, siamo messi meglio di 3-4 anni fa, ed è un paradosso che sia andata così, però insomma amen, dai, è andata così, che dobbiamo tanto fare? Tanto fino al 10 luglio, giorno esatto. della finale, quando si fa, tanto saremo qui, è inutile che facciamo finta di niente. Allora, abbiamo il traffico, torniamo subito, dobbiamo anche dirvi che ha vinto la schedina, lo facciamo dopo aver sentito però un grande ex dell'Inter. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Tutti convocati. Padoin va col mancino, cross in mezzo, la deviazione e poi Icardi. Cross in mezzo, l'anticipo, attenzione, pallone che si alza, traversa Icardi. 3-1 Inter e alla fine arriva sempre lui e la chiude Icardi. Si sembra avere un magnete che attira il pallone. Non so se è la calamita, però sono nel momento giusto quando capita lì. Oggi potevo fare anche 3, quella del primo tempo che mi ha schizzato un po' forte, ma va bene, sono contento, ho fatto un'altra doppietta e sono contento così. Mezza palla gol nel primo tempo ci ha fatto gol. Questo è un grande attaccante, a parte che questo l'ho detto ai ragazzi. In questa settimana trovavano un animale dentro l'aria, dovevamo tenerlo lontano. Lui è un giocatore di grande spessore, di grande personalità, lui è quello che risolve le cose, no? Lì, ti toglie i dubbi lui. Lei ha detto che non è preoccupato per quella clausola che adesso è diventata troppo bassa, però meglio toglierla, può stare tranquillo, dormire tranquillo. No, queste sono cose che si parla con la società, voi sapete cosa penso io e non c'è niente da dire. Io credo, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che all'Inter facciano bene in fretta a trovare il modo di alzare quella clausola su Mauro Icardi, 110 milioni per l'estero, questa è la clausola che ha. Icardi che ha segnato 15 gol su 28 dell'Inter, Icardi che ha segnato 93 gol in 160 partite con l'Inter, 15 in 14 giocate in questa stagione, e insomma questi sono numeri che raccontano tutto di che cos'è in questo momento Mauro Icardi. Uno poi dei ci divideremo, esatto, se stiamo o no sul podio, secondo me no. Andrea secondo Mandorlini, sì. ciao a tutti, buonasera. Sta sul podio dei primi tre al mondo o no come centravanti? In questo momento sta alla grande, poi insomma è a 24 anni, quindi ancora molto giovane, quindi dove ne vedremo ancora delle belle, mi auguro. Secondo me è uno che non ha ancora fatto un minuto in Champions League, non ha fatto un gol in nazionale e fuori dall'Italia ha segnato 6 gol in Europa League, non può stare sul podio, è fortissimo, però cioè, non che so, colpa Piero ne ha, la Champions League non l'ha giocata, in nazionale non fanno giocare, che cosa può fare, cosa può fare Mauro Icardi? D'accordo con Genta, dai, non credo, è vero sicuramente che come caratura uno possa avere anche questo dubbio, cioè possa avere il dubbio che giochi contro degli avversari, diciamo a un livello di difficoltà che è inferiore a quello delle grandissimissime partite, e quindi l'obiezione la posso anche accogliere, però che colpa ne ha veramente? No, ma perché cioè, noi ad esempio, vediamo... voglio dire, una delle critiche che viene fatta di Higuain, e di Higuain si conosce tutto, pregi, difetti, ha fatto una finale mondiale, però quando si alza quel livello, a quel livello lì, il livello massimo, si perde via. Addirittura c'è chi dice Messi però con l'Argentina, quindi non è il migliore di tutti. Bene. E Icardi, che guardate, io non sto discutendo il potenziale di Icardi, che è straordinario, però secondo me metterlo sul podio tra dei migliori del mondo in questo momento è una forzatura, e questo è il mio però pensiero, perché non c'è ancora stato lì. Ma più che fare due gol a partita, cosa deve fare? Deve aspettare e farli anche fuori. Vabbè, però questa è una discussione che andremo avanti. Lo vedremo. Andrea, ma c'è tanta differenza tra questo e quel livello? Beh, insomma, quel livello lì, stai parlando di Cristiano Ronaldo e tanti altri, insomma, che ne hanno fatti dei gol, ne faranno. Lui sta facendo bene qua, come giustamente stavate dicendo, però è chiaro che la consacrazione si avrà, mi auguro, un domani, quando farà gol nazionale, farà gol nelle coppe, aiuterà il club a vincere qualche cosa importante. Sì. E prima ho detto dovremmo vedere delle belle, però sono un po' d'accordo, in questo momento è un giocatore fortissimo, però insomma nei primi tre è un po' una forzatura, ecco. Beh, non lo so, io altri più bravi non è che ne vedo in giro. Poi Andrea, tu sei allenato, ma hai giocato anche con grandissimi fuoriclasse. Cioè, a me che impressiona è il fatto di vederlo sempre al posto giusto nel momento giusto, che sembra una casualità. Ah, guarda, arriva la palla e arriva sul piede di Icardi. Guarda il terzo gol di ieri, discutibile finché vuoi. A un certo punto era pure un po' arrabbiato perché la palla non è arrivata prima, si stava quasi defilando l'azione, bam, gli casa sul piede e fa gol. Questo è talento, intuito, fiuto del gol. Mi viene in mente Virdi, un giorno disse: si aggira per l'area come se cercasse un tabaccaio e poi guarda caso fa gol. Sì, è la dote dei grandi attaccanti. Ah sì, è un po' la natura, insomma, è nato così. Cioè, io potevo andare nell'area, ma non mi capitava una volta ogni milione di volte. No, a parte tutto, insomma, è sempre al posto giusto, al momento giusto. Insomma, cioè, l'istinto del goleador. E a volte gli si dice, insomma, non partecipa tanto di qua. No, invece io credo che poi nell'andare del tempo lui migliorerà anche quello, perché è un giocatore che ha tecnica, tiene onda, quindi è un giocatore completo. Però adesso, ragazzi, di in area non sbaglia mai. Anche il terzo gol di ieri era difficile perché c'era tanti giocatori, invece lui l'ha messa proprio nel posto giusto. Tanto Lazio in vantaggio, 25esimo minuto. La Lazio è passata in vantaggio con un colpo di testa di Stefan De Vrij sugli sviluppi di un calcio di punizione. Non si è piazzata benissimo la linea difensiva della Fiorentina. De Vrij si è trovato all'altezza dell'area piccola centrale e con un colpo di testa forte e preciso, anche abbastanza centrale ma imprendibile per Sportiello, ha trovato il gol del vantaggio della Lazio. Andrea Mandolini, è da scudetto l'Inter? Lo dico perché i numeri dicono che a questa velocità aveva viaggiato solo due volte nella sua storia. Una, l'Inter dei record di Trapattoni, in cui c'eri. Ecco, l'altra, l'Inter di Mancini post Calciopoli, tutte e due volte è stata da scudetto. È una squadra equilibrata, anche ieri sera che ha sofferto per 20 minuti, poi ha vinto, è una squadra convinta. Io credo che Luciano abbia proprio fatto uscire questa convinzione che prima mancava, talenante, adesso è convinta e manca ancora tantissimo tempo, però credo che pian pianino loro si stanno convincendo sempre di più che possono restare lì e lottare fino alla fine. Pier? Io ho cambiato idea da ieri, diciamo sposo la linea della Gazzetta. Cioè che è da scudetto? Comincio a pensare che sia possibile, non credo sia la favorita assoluta, ma credo che possa farcela, perché in effetti ha le cose semplici, cioè ha un portiere pazzesco, ha un attaccante pazzesco, ha un allenatore bravissimo, ha dei giocatori comunque esterni di un livello enorme. Perisic è un giocatore importantissimo, quello che fa ieri sul gol del 1-0 è incredibile. Ha pochi cambi, sicuramente appesa, lo diciamo dall'inizio della stagione, una panchina un po' corta, però è pure vero che non ha le coppe, poi magari a gennaio farà qualcosa sul mercato, non deve fare neanche niente di clamoroso, deve semplicemente rafforzare un po', irrobustire un po' la rosa, prendere secondo me un altro centrale difensivo di livello importante e insomma, poi siamo a fine novembre, no? E quindi voglio dire, non è che adesso, cioè, comincia a essere un pezzo di stagione abbastanza profondo. Probante. Quindi sì, quindi comincio a pensare che possa essere, ripeto, poi magari ci sono altre favorite, penso al Napoli soprattutto per come gioca e penso alla Juve per l'esperienza che ha, però insomma sì, da ieri sera ho proprio la sensazione, perché ha distinto delle squadre che sanno come si fa. Intanto la vediamo domenica prossima senza due o tre pezzi importanti. Visto però che prima celebravamo il Chievo, ha fermato anche il Napoli, attenzione, sono 20 punti, però, ma infatti è una partita insidiosa, però il Chievo, insomma, sappiamo quella che c'è dopo, no? Sappiamo la partita, sì, che c'è dopo, la Juventus, che è Juve Inter, quindi io credo che le due non dico che si siano fatti ammonire apposta, perché non è così, però tutto sommato è un male relativo, perché arrivare invece con Miranda e Gagliardini liberi da cartellini e da diffide per la sfida contro la Juve sarà importante. Andrea Mandolini, ma quanto può dar fastidio a un allenatore che ha battezzato 11-12 giocatori per la prima volta nella stagione trovarsi di fronte, diciamo, a una situazione di emergenza? Perché i giocatori sono Miranda e Gagliardini sicuri, perché saranno squalificati. Io ho l'impressione che anche per Vessino, insomma, non ci sarà nessuna forzatura. Però adesso, con tutto il rispetto per Chievo, però, insomma, la partita ci poteva stare, insomma, adesso non credo che abbiano fatto apposta, però insomma delle partite poi non è che si può arrivare fino in fondo, giocare sempre le partite, gli scontri diretti al completo, fa parte del gioco, però insomma io quello che parlo, ma io credo comunque sia una rosa abbastanza importante. A me piace Brozovic, adesso ho l'opportunità magari di giocare dall'inizio, e quindi se l'Inter è convinta e vuole rimanere fino alla fine deve anche avere dei cambi, dei cambi all'altezza, e così deve essere l'autostima di tutti, di tutta la squadra. Sì, ma poi è chiaro che è più dietro, nel caso, no, certo, secondo me. Certo che è più dietro, però allora gli scontri diretti diranno la verità, le assenze che avrà l'Inter diranno la verità, non si tratta che di aspettare. Poi rendo onore a Pardo, perché cambiare idea è tipico di quelli intelligenti, ma anch'io mi sto ricredendo sull'Inter, però ragazzi, certo, questi qui sono sorprendendo. Non fare il cretino, no, ma sono mi sta sorprendendo. Ho capito, mi sto sorprendendo. No. Ah, okay. No. No, anche a me sta sorprendendo moltissimo. Mi sta sorprendendo moltissimo, perché non te l'aspettavi così. Poi è una squadra molto fisica, però ripeto, quelli che c'erano l'anno scorso non erano pippe, semplicemente in un contesto del tutto difficile e incasinato. Sono gli stessi giocatori, ma erano bravi l'anno scorso, sono bravi quest'anno. Poi Spalletti li ha messi in riga e ha gestito la situazione in maniera perfetta. Tra l'altro tendo a sottolineare come nell'Inter nessuno parli se non l'allenatore, non senti altre voci, e questo è un fatto importante, sì, che non sempre storicamente è successo, no, Andrea? Appunto. Milano, no, non sempre, infatti chi ha vinto più di noi dovrebbe essere preso come esempio, quindi adesso credo che, ripeto, molto più equilibrio anche dal punto di vista proprio quello che avete detto voi, al di là del campo, fuori dal campo, si è tutti lì, anche stavo ascoltando appunto la difesa, erano gli stessi giocatori, ma quest'anno si chiede di dare di più, se no si va via, e quest'anno stanno dando, anche Santon, che era un giocatore ormai che doveva andare, che doveva lasciare la squadra, invece ci sta e ha fatto la parte alla grande, quindi come tanti. E poi grandi complimenti al suo screen, io l'ho visto a Sampdoria, ma credo che abbia veramente, sia stato un acquisto importantissimo, un giocatore in equilibrio tecnico, forte di testa, anche se ieri insomma Paoletti insomma è un attaccante importante, però veramente è una squadra che sta conquistando sempre di più fiducia e nei propri mezzi, e bene così. Siccome domenica gioca Ranocchia, quasi certamente, che ha una storia particolare, ma vedrete, con San Siro, che farà bene anche lui. Allora, di calati nei panni di Spalletti e mi dici che cos'è la prima cosa che gli dici domani alla ripresa degli allenamenti, sapendo che ha davanti una settimana in cui gioca e il rapporto con San Siro è quello che conosciamo. Cosa gli dici? Non so, io che al di là che gioca domenica prossima, credo comunque se lo fa giocare, perché comunque ha mantenuto un livello di allenamento, di attenzione, pur non giocando titolare, quindi se gli dà la maglia, sì, ma gli dici vai e tappati le orecchie, gli dici se giochi nell'Inter devi essere pronto, e credo che Luciano abbia magari molti pensavano di esserlo anche prima, poi io credo che non lo erano, quindi lui è stato bravo a trovare la chiave giusta, non è facile, però l'ha trovata in tanti giocatori, ripeto, ho detto Santon, ma vedete che sarà così anche per Ranocchia, è riuscito a trovare il massimo da tutti, anche in minuti, spezzoni, in poche partite, e credo che sia fondamentale. Grazie Andrea. Ciao a tutti, grazie Andrea Mandorlini. Scusami, questa vicenda qui poi vedremo come andrà, insomma, però è l'esempio del fatto che gli allenatori contano e come. Perché sai, c'è sempre chi dice che gli allenatori contano il 20%, gli allenatori contano molto di più. Sono anche alcuni di loro che dicono di se stessi che contano non più del 15-20%, Ma non è così. Nel senso che poi alla fine, soprattutto a quei livelli lì di squadre di sport professionistico, le differenze sono minime. Sono storie di eccellenza, sono eccellenze contro, e quindi un allenatore bravo che riesce a entrare in sintonia, poi non c'è la regola assoluta, nel senso che non è che ogni allenatore che è un allenatore bravo non sbagli mai e tutte le stagioni siano sempre allo stesso livello, però il rendimento dell'allenatore fa la differenza. Ah, certo. Allora ci dobbiamo separare, non ha ancora vinto nessuno la schedina, se non sbaglio, Pier. Vivo che cosa, esatto. Però quel gol lì di De Vrij potrebbe fare tutta la differenza del mondo, giusto? A favore, no? Di chi? Se non a favore di Pier. Per il momento abbiamo ancora 58 minuti perché siamo a più mezzo, insomma, in questo momento. Se manca un'ora di partita. Ma scusa, sono a uno e mezzo, scusami. Sì, non lo so, perso il conto. Facciamo così. Ah, sì, hai ragione, Milan Toro. Non faccio finta di niente. Siamo alla commedia. Tanto domani, se ha vinto Pier, lo leggerete su tutti i social di tutti i convocati, a differenza di quando vinco io. Saluto Pierluigi Pardo. Ciao, a domani. Torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, siamo al 37esimo del primo tempo all'Olimpico, 1-0 per la Lazio sulla Fiorentina, decide fin qui il gol di De Vrij al 25esimo. Marco da Terni che ci ha aspettato con pazienza. Marco. Con molta pazienza, buonasera. Vai. A tutti. È il tuo momento. Scusate innanzitutto la voce, ma sono da poco uscito dal derby Ternana Perugia, quindi la voce è andata completamente. 1-1, sì. Appunto. No, sentivo che parlavate molto di VAR, arbitri, eccetera, ma che ne pensate se anche questi tipo di controlli venissero inseriti anche nei campionati minori, dato che stasera abbiamo visto un rigore assegnato in maniera, non so, direi inesistente. Se ci chiedi scusa, non l'abbiamo visto, ecco. Eravamo concentrati sulle pareti di Serie A, quindi prendiamo per buono la tua lettura del rigore, immagino quello del Perugia, no? Sì, esatto, quello è arrivato all'ultimo minuto. Guarda, io sul VAR sono d'accordissimo, però lasciamo che si consolidi, che già è un'operazione non semplicissima in Serie A, lo vedremo al Mondiale e ciò mi fa tremare la prossima estate. E poi secondo me la Serie B ha, insomma, poi mi fermerei lì, non si può immaginare di riempire i campi della provincia italiana. Esatto, di telecamere e di quel sistema. Però in Serie B si può fare, io sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro questo è stato un grande weekend di derby. Ha ragione Marco a citare Ternana-Perugia, che è finito 1-1, è finito 1-0 per il Pisa, il derby in Serie G fra Pisa e Livorno. Mandiamo un abbraccione a Cicciordine, insieme. C'è stata la sconfitta all'ultimo minuto, tempo di recupero del Foggia contro il Bari, 1-0, con gol tra l'altro di un foggiano che non ha esultato. Domani so che ne parlerete, avrete credo tutta la puntata con Cicciordine su Bari Foggia. Ieri abbiamo visto un incredibile Borussia Dortmund Schalke da 4-0 a 4-4, il sogno di tutti i tifosi, quelli dello Schalke ovviamente, non quelli del Borussia Dortmund. Fatemi sentire Allegri, che c'è Guido Baciago. Quando si dice la Juventus in crisi bisogna cambiare, cioè, la Juventus in crisi due anni fa, quando eravamo a 12 punti dal primo posto, eravamo in grossa difficoltà. Ripensa l'anno scorso. L'anno scorso noi siamo andati a Firenze, non giocavamo sicuramente benissimo, con questo fatto di giocare bene, però avevamo 7 punti di vantaggio. Abbiamo perso a Firenze, siamo andati a 4 di vantaggio. Ho cambiato perché, non perché avevamo perso a Firenze o perché, però secondo me la squadra aveva fatto il massimo di quello che potesse fare in quel momento, con quel sistema di gioco, con quei giocatori, e ho preferito cambiare. Cambiare si cambia quando c'è la necessità di cambiare e quando non intravedo più i miglioramenti. We'll be right back. Quest'anno il Napoli sta facendo cose straordinarie perché ha giocato 13 partite, ne ha vinte 11, ne ha pareggiate solamente 2. La Juventus forse gli mancherà 3 punti. In Champions la Juventus ha fatto il percorso che doveva fare. Siamo a un passo dal passaggio del turno, che è il primo obiettivo della stagione. Aspetteremo Atene per vedere se riusciremo a passare. Bisogna trovare la condizione di alcuni giocatori. In questo momento abbiamo più giorni per poter lavorare e quindi magari mi rimetterò un pochino a fare l'allenatore. Quindi che fa Guido Vacciago? Cambia o no? Io sai che non l'ho capito. Intanto buonasera a tutti, ciao. Ma si cambia, ciao. Si cambia 3-4-2-1, chiamiamolo 3-4-2-1. Così. Perché io credo che stasera, se le indiscrezioni sono confermate, mi sembra che siano confermate, si giochi con una difesa 3, con Barzagli, l'esordio di Ovedes, l'oggetto misterioso di questa prima parte della stagione, tutti i tifosi lo aspettavano, misterioso fino a un certo punto, un campione del mondo, però comunque non aveva ancora giocato mezzo minuto con la maglia della Juve, e lo esordirà al centro della difesa a 3, chiuderà la difesa Benatia, e poi centrocampo a 4 con Lichtsteiner, e già qua uno può dire, però Lichtsteiner in fondo può anche tornare indietro, può essere può anche un 4-3-3. Scivolare indietro, sì. Però diciamo che di partenza lui lo vorrebbe sulla linea dei centrocampisti, Lichtsteiner e Alexandro, uno da una parte e uno dall'altra, in mezzo Marchisio e Matuidi, e poi dietro Mandzukic, che sostituisce Higuain come prima punta, ci sono Dybala e Douglas Costa. Mandzukic che sostituisce Higuain e che torna a fare la punta centrale, come di fatto secondo me continuerà a fare nel resto della stagione, perché sì, io credo che sia anche finita. Se se l'è un po' presa per quella prima pagina, se l'è un po' presa, però stasera gioca prima punta, quindi alla fine vedi che io credo che Allegri abbia in qualche modo archiviato l'era di Mandzukic terzino, vuoi perché forse lui non ne ha più voglia, non lo so, probabilmente non ce la fa più anche fisicamente, tra l'altro non sta benissimo tutta la stagione, però tutto sport li ha messo, Mandzukic non torna più lì sulla prima pagina ieri, lui torna, se l'è presa ma sì, ma se la può prendere finché vuole, poi tra l'altro sai meglio di me come Mandzukic sia abbia un peso specifico notevole dentro lo spogliatoio e presso l'opinione pubblica juventina, basta guardare la curva dell'altra sera in Champions League, quindi può prendersela finché vuole, però la verità è questa, non ne ha più per giocare, per fare il cavallo da tiro, da trotto, e deve giocare nel suo ruolo, cioè centravanti, e fa il backup di Higuain. È così? Cioè è che non ne ha più? È esattamente così. No, io non so se non ne ha più, sinceramente. Poi è certamente avuto un inizio di stagione travagliato tra infortuni e nazionali che l'ha spremuto come un limone. Quindi può darsi che nella seconda parte della stagione, se lui riesce adesso ad avere dei tempi di recupero più umani, magari ritrova quelle energie che aveva l'anno scorso. Però certo non l'ha mai fatto, quindi io posso dedurre uno che non ce l'abbia più nelle gambe, due che tutto sommato progettando lui un mondiale da centravanti si stia anche in qualche modo adattando alla Juve per non fare tutta la stagione da tornante sinistro, ecco. Però si sta rassegnando anche a un ruolo da riserva. E questo è il problema, perché se lui vuole fare la punta è ovvio che Higuain è titolare, cioè, lui gioca è Juve Crotone ma non gioca Juve Barcellona, per intenderci. Non gioca Juve Napoli, perché tanto la prossima è quella Napoli-Juve, scusate. Napoli-Juve di venerdì, per esempio, io credo che se stasera non succedono disastri il sistema di gioco potrebbe essere anche confermato contro il Napoli, e questo sistema di gioco prevederà l'utilizzo di Higuain centravanti, e poi vediamo. È vero che tutto sommato, essendo Mandzukic un centravanti atipico, perché comunque un centravanti di movimento, potresti pensare questo stesso sistema con il solo Dybala dietro Mandzukic e Higuain. È un tentativo, è un esperimento. Tanto mi sembra che Allegri stia cercando di trovare, come l'anno scorso, l'equilibrio giusto. A me piace Allegri perché il suo sistema di gioco non deriva dal fatto voglio vedere la squadra giocare in qualche modo. Lui cerca un sistema di gioco per mettere in campo tutti i più forti. Vero, verissimo. Io però perdonami Guido, sto facendo due conti su quello che hai detto tu prima. Anche a me piace tantissimo Allegri, credo che lui piaccia un po' meno il mercato che gli è stato fatto, perché se l'approdo è il 3-4-2-1 come ce l'hai raccontato, vuol dire che Bernardeschi è stato preso per fare la riserva. Vuol dire che De Sciglio, chi lo sa, vuol dire che Rugani viene di fatto non so. No, beh, con una difesa 3 al limite Rugani c'ha pure più spazio. Beh, però insomma i titolari 4. Sono Chiellini, Ouedes nell'idea, Chiellini, Ouedes e Benatia o Rugani. No, e Barzagli ci sarebbe anche, però Rugani in quella lì dietro possono girare molto. Ma guarda, io De Sciglio non ne parliamo. Due cose, sì, De Sciglio potrebbe essere anche lì sacrificato, perché io credo che al posto di Lichtsteiner sulla destra nella testa di Allegri ci sia Quadrado. Perché sennò altrimenti diventa un sistema fortemente difensivo, mentre io credo che questo sistema con Quadrado sulla destra potrebbe fare tutta la fascia, cosa che lui tutto sommato ha nelle sue corde, potrebbe diventare un bel sistema di gioco. Però facciamo questo gioco, guarda, secondo me dammi l'11. Allora, se domani mattina ci fosse la finale di Champions League, nessun infortunato, il modulo è il 3-4-2-1, Buffon in porta, dimmi gli altri 10, perché voglio capire che cosa resta nel mercato. Proviamo a fare questo gioco partendo da davanti, che è abbastanza semplice. Io metterei davanti, metterei Higuain, uno dei due è sempre costantemente Dybala, l'altro che gioca dietro la punta effettivamente è uno che può ballare tra Douglas Costa, Bernardeschi, lo stesso Mandzukic, a quel punto diventa un centravanti, ma più o meno è lì. A centrocampo credo che a sinistra giocherebbe Alexandro e a destra Quadrado, in mezzo potrebbero essere Pjanic e uno tra Matuidi, Marchisio e Khedira, e dietro secondo me possono essere Barzagli, Ouedes, Chiellini o Rugani, Ouedes, Chiellini con Buffon in porta. Questa potrebbe essere una formazione tipo della Juventus. Allora, me ne hai detti due in ballottaggio di nuovi. Me ne hai detto due in ballottaggio e poi Matuidi a centrocampo. No, ecco, due e mezzo, esatto, sì. Vabbè. Insomma, però diciamo che per un mercato da oltre 100 milioni di euro non è tantissimo. Guarda, ci sono due cose. Il mercato della Juve di quest'anno era un mercato per comprare delle riserve di lusso, ma per migliorare le riserve, perché tutto sommato loro, a torto o a ragione, questo starà alla stagione giudicarlo, ritenevano la squadra dell'anno scorso difficilmente migliorabile, e quindi hanno detto noi compriamo delle alternative di lusso. Il fatto è che sembrava alla fine della scorsa stagione che il 4-2-3-1 fosse diventato il sistema di gioco definitivo, e quindi se ti ricordi la finale di Cardiff, che ha condizionato tanto le scelte di mercato, la Juve era arrivata corta di attaccanti. Ecco perché l'acquisto di Douglas Costa e Bernardeschi, addirittura due in quel ruolo, perché tu avevi quella linea di tre formata da Mandzukic, Bala e Quadrado, e con Higuain davanti, e quella linea di tre aveva giocato tutte le partite da gennaio in poi. Si era fatto male piazza, tutto quanto, quindi non aveva avuto ricambi, tant'è vero che tu arrivi alla finale di Champions senza avere in panchina delle alternative in attacco. Ecco perché secondo me un po' il mercato è figlio di quella panchina corta di carte. Però se poi devi cambiare modulo, evidentemente può uscire qualche incongruenza. Esatto, e un po' ti ritrovi nella situazione dell'anno scorso, cioè l'anno scorso avevi fatto il mercato per un sistema, poi lui ha cambiato, e un po' sembra il destino della Juve. Sai, il problema è questo: la Juve vende sempre qualcosa, qualche pezzo lo vende. È una Juve che è destinata a cambiare poi spesso sistema, non a caso Marotta, se ci fai caso, cerca sempre i giocatori che vadano bene in due ruoli, perché poi non sa dove va a parare. Però mi è piaciuto il giochino, attento. Grazie Guido. Le giacche blu, quelle che dici, una giacca blu, così la metto con i jeans, col vestito, sì, oppure prendi i jeans che vanno bene con qualsiasi cosa. Grazie Guido, buona partita, buon lavoro. Ciao. Traffico, è finito il primo tempo, 1-0 la Lazio, torniamo subito a Formula 1. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Stagione di Formula 1 che si è chiusa con la vittoria di Bottas ad Abu Dhabi. Hamilton, Vettel, Raikkonen e Verstappen alle sue spalle. Hamilton campione del mondo, ma si sapeva. Mercedes prima nella classifica scuderia, ma si sapeva. Oggi la gara ha detto veramente poco. Saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta. Ciao, ciao, ciao, buona serata a tutti. Ti abbiamo convocato per le pagelle della stagione, restano purtroppo 4 minuti ma li pigliamo tutti. Io ti dico le mie: Ferrari 7, Vettel 6,5, Raikkonen 4, Mercedes 7, Hamilton 9, la stagione nel complesso 8 meno meno. Guarda, io la Ferrari darei addirittura 7,5, Vettel 6,5 mi sembra che ci stia, a Raikkonen potremmo dare un 5 perché non dimentichiamo che ha regalato due gare, 1,5 sicuramente. Quella di Budapest sicuramente l'ha regalata a Vettel, se non l'avrebbe però vinto, ha preso 100 punti da Bottas, restando però, tra le seconde guide, e di là la Mercedes 10, Hamilton 9 perché ha sbagliato forse solo una volta, forse solo nelle prove del Gran Premio del Brasile, per il resto è stato praticamente perfetto, dimostrando che quando ci si mette tutta la sua volontà, la sua concentrazione, ha qualcosina in più, ha qualcosina in più di tanti altri. La Mercedes 10 davvero non è stata, come ha detto Lauda, la miglior, non era la miglior macchina della stagione? Non era la miglior macchina, se però proprio per quello, se alla fine hai 12, porti a casa 12 vittorie contro 5 della scuderia che ti è stata più vicina, vuol dire che hai approfittato di tutte le occasioni che ti sono venute. Certo, poi quel 12-5 con cui è finita la stagione, se togli le rotture della Mercedes e gli errori di Vettel, poteva finire anche 9-8 a essere positive per la Ferrari, però la Mercedes è riuscita a vincere anche quando non aveva la macchina migliore degli altri, quindi questo, insomma, io credo che la scuderia quest'anno abbia funzionato alla grandissima, non con il dominio dell'anno scorso, 19 vittorie su 20 gare, ma comunque un dominio importante dal punto di vista della classifica, che poi in pista non sempre la Mercedes quest'anno è stata la miglior macchina, la Ferrari fino a Monza è stata in testa al mondiale e io credo che sia stato un mondiale positivo, anche se ormai abbiamo fatto 10, siamo a 10 anni senza un titolo mondiale e comincia a diventare un numero importante. Speriamo di non fare 11. Vettel è un fuoriclasse? Cioè, in una stagione in cui la Ferrari merita 7, 7,5 e si è avvicinata alla Mercedes... È sicuramente un fuoriclasse. È stato un valore in più me, o alla fine anche lui si è perso? Secondo me non è Hamilton ha ancora qualcosina in più. Vettel è uno dei top 3, top 4 piloti oggi in pista. Quest'anno ha fatto qualche errore di troppo e soprattutto ha fatto capire che quando è sotto pressione o perché sta lottando per il titolo mondiale o perché c'è di fianco un giovane irriverente come Verstappen, perde la testa, l'ha persa in un paio di occasioni e pesantemente, quindi va tenuto conto anche di questo, però è sicuramente un pilota che ha permesso alla Ferrari, anche per come ragiona come uomo di squadra all'interno della scuderia, di fare il salto di qualità. Io ho tolto mezzo punto alla Ferrari per il rinnovo a Raikkonen. Non hai tutti i topi, poi dovrai difenderti da Leo Turini domani. Lo so. Però Raikkonen, più passa il tempo, più ci chiediamo perché. Quando è stato fatto aveva un senso, perché Vettel era in lotta per il mondiale, bisognava fargli la squadra come voleva lui, però adesso come adesso l'unica chance che do io alla Ferrari è quella che si trovi un sedile, come sembra, a Leclerc, che potrebbe essere il Verstappen vestito di rosso, perché tutti ne parlano benissimo, e poi veramente alla fine della prossima stagione si dia quel volante a Leclerc, che potrebbe essere il giovane su cui puntare per il futuro, perché sennò altrimenti non vedrei giustificazioni a questo tenere ancora Raikkonen in pista per un anno. Grazie direttore. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie a Umberto Zappelloni, leggeremo domani sulla Gazzetta. Abbiamo finito qui, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Filippo Aureggi e Andrea Roccobella che si sono alternati in regia. Tutti Convocati Weekend torna domenica alle 17, mentre Tutti Convocati torna domani dopo il GR delle 14 con Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.